Save me, you're the soul. Save me, you're the soul. Save me, you're the soul. Save funziona questo microfono. C'è stato un pre-quo all'inizio. Ah! Secondo te da suono sul Raido sul Crash? Ma che cazzo gliene frega lui? Ma che cazzo gliene frega noi soprattutto? Esatto. Qui abbiamo bisogno di scenografie, di ghiacciai, ventilatori in faccia che ci sollevano i capelli. Perché noi siamo sensibili. Pezzo di merda. Se non ti fai i cazzi tuoi, guarda. Vabbè, va fa un culo. Ci stiamo auto-eccitando. Ma che... Ma sto microfono si sente? Poi basta perché è quasi ora di andare a mangiare, eh? Andiamo a mangiare, ha detto. Via! Fame! Andiamo a mangiare! Vabbè, io vado a prendere da bere perché qua vedo... Davide! Stai registrando? Albertinotti! Signora! Signora, il microfono! Albertino... Albert... Tommaso! Dov'è? Dammi il martello! Ma c'è l'Albertinetti? Albert, aspetta! L'Albertinetti, quindi? Basta! Ci siamo rotti il cazzo! Dopo un par ramen di droga come facevano i Narcos per tenere in vita. Con la siringa nel culo, pum! Porco! Filti dei pompar di droga, non so come dirtelo. Bisogna pomparti di adrenalina. Questa traccia, finché non suoniamo al grave, non può uscire, perché sennò ci aspettano coi didol con le lame. Con i didol? Con le lame. Cosa sono i didol? I didol sono... Vi siete accorti che stiamo facendo una matinée? Una matinée? Avec le strumento!